Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento con l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Come annunciato, oggi parliamo di consumi presunti, quelli in bolletta, perché molti di noi si vedono arrivare, soprattutto d'inverno per quanto riguarda il gas, non solo, delle cifre astronomiche. Vediamo di capire come potersi tutelare insieme a Carlo Garofolini, presidente dell'Adico. Ciao Carlo. Ciao Mirko e un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, queste bollette che appunto vengono emesse soprattutto d'inverno, penso al gas, ma perché il caso fosse più eclatante, su consumi che ancora effettivamente non sono stati fatti, ci fanno sborsare soldi che poi magari ci vengono rimborsati nei mesi successivi, ma insomma di questi tempi uno avrebbe piacere anche i soldi di tenerseli in tasca. Certo, sappiamo che quando si tratta di dover rimborsare delle cifre, comunque il percorso non è mai liscio e mai indolore. È anche vero che questa volta è l'autorità che invita il governo a intervenire proprio su quello che è un fenomeno dei consumi presunti, perché come hai detto te capitano in certi periodi, soprattutto nei periodi dell'anno, che le famiglie si trovano autentiche batoste da pagare in virtù di consumi che non sono stati rilevati o di letture presunte che non erano assolutamente in linea con quelle reali. E a volte ci capitano che questi consumi presunti siano molto discostati da quelli che sono reali, sia in difetto che in eccesso. E poi, come abbiamo detto te, se da una parte arrivano queste mega bollette, da quell'altra ci sono delle famiglie che si trovano questi addebiti sui conto correnti che veramente le mettono in gravi difficoltà. E cosa si può fare? Cosa si può fare? Innanzitutto è una buona norma comportamentale predisporci un po' memoria e sistematicamente inoltrare l'autolettura per evitare appunto questo tipo di consumi o questo tipo di bollette. E normalmente il consumatore, soprattutto chi ha l'addebito bancario, deve stare molto attento, perché capitano molti casi di persone che hanno ricevuto l'invio della documentazione cartacea dopo che hanno ricevuto l'addebito in banca e qualcuno è sconfinato anche rispetto alla disponibilità che aveva. Quando accadono queste cose qua, comunque il consumatore può sempre valutare la possibilità di rateizzare l'importo della bolletta, qualora riesca a individuare quello che è l'esatto costo da pagare in base a metri o kilowatt, metri cubi o kilowatt consumati. Il consumatore sa che comunque, nel dubbio che una bolletta non arriva, può sempre mandare una comunicazione all'ente che la sta aspettando da non so quanti mesi, e per tutelarsi può anche decidere di bloccare l'addebito in conto, proprio per non trovarsi poi nella condizione che abbiamo appena detto. Allora, l'Authority ha semplicemente invitato il governo a fare questa cosa, quindi non è detto che questa applicazione sui consumi reali sia immediata o semmai verrà effettivamente applicata. Sì, noi stavamo leggendo proprio questa segnalazione che l'Authority ha fatto, e rimane sempre l'invito anche noi di mantenere alta l'attenzione, perché come detto questo fenomeno dei consumi presunti è un fenomeno che mette in difficoltà molte famiglie e che inducono anche le compagnie a volte a proporre tariffazioni e contratti che sono fuori da ogni logica, semplicemente stabilendo dei forfè in base a quelli che sono dei semplici consumi presunti, ingannando poi i consumatori da quelli che sono dei costi che a fine anno magari si trovano a pagare. Però è anche vero che nella stessa segnalazione l'Authority ha evidenziato un'altra importante criticità, che è quello di voler separare il banco posta dalle attività postali tradizionali, perché è convinta, ed è vero, che fare confusione di attività può indurre il consumatore ad accettare delle condizioni che vengono proposte, e questo può limitare la concorrenza che le banche possono offrire. E credo che ciascuno di noi, quando va in posta, ormai sempre con maggiore difficoltà identifica quelle che sono le corsie per i prodotti postali rispetto a quelli che sono i prodotti bancari. Sì, poi soprattutto negli uffici postali piccoli dove magari c'è poco personale, alla fine le stesse persone svolgono più funzioni e proprio in questo viene anche generata la confusione, visto che poi è clientela fedele, penso soprattutto agli anziani che hanno la posta come punto di riferimento, spesso queste persone possono diventare destinatarie di queste proposte commerciali alla fine, che però dovrebbero essere effettivamente separate. Anche se dall'altra parte, mi metto dalla parte dell'utente, può essere comodo avere un unico punto di riferimento piuttosto che tanti. Sì, quello che dice è verissimo, però il consumatore deve sempre trovarsi nella condizione di poter confrontare le offerte e trovarsi a essere indotto da qui a un conto, perché l'obbligo, per esempio, di accreditare la pensione su un conto corrente bancario, postale o su un libretto, certamente per comodità uno viene indotto un pochino a sottoscrivere e accettare delle condizioni senza perdere il privilegio di poter avere dei preventivi e quindi valutare quella che può essere la condizione migliore per per le sue convenienze e le sue capacità di risparmiatore che può avere. Poi è anche vero che l'Authority, che è un organo molto importante, ha segnalato come per esempio mancano delle vere politiche concorrenziali in certi settori, in particolar modo anche in quello dei trasporti, anzi addirittura manca proprio una vera autorità di controllo nel settore dei trasporti, e qui c'è uno stimolo da parte dell'autorità a far sì che questa cosa venga istituita, perché oggi ancora non esiste proprio una concorrenza. In questo senso bisogna cominciare a ragionare per rendere il settore più efficiente e più conveniente per il consumatore. Consumatore che a volte farebbe bene a non essere così pigro, ma darsi da fare per cercare effettivamente le offerte migliori. Allora, con questo ci salutiamo. Oggi la linea telefonica, a proposito di servizi, era un po' ballerina e quindi ci scusiamo per l'inconveniente. Comunque abbiamo capito tutto. Associazione Difesa Consumatori.it per ulteriori informazioni, segnalazioni o richieste. Grazie Carlo, alla settimana prossima. Grazie a te Mirko e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.